Senza le correzioni auspicate dall'Oliva in un'ormai lontana caccia del 6 dicembre del 98, allorché ne uscì la prima edizione, Aldo Cazzullo ha ora ripubblicato in edizione riveduta e corretta I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, che, come già dice la copertina, vorrebbe essere una storia critica di lotta continua. Oggi come ieri, nel tentativo di far riemergere i protagonisti di quel movimento politico, l'autore si affida spesso alla memoria di Gad Lerner, che tra i tanti altri ricorda in un paio di occasioni la figura di Carlo Oliva, il qui presente. La prima volta lo ricorda come amico di una ragazza che poi divenne dirigente clandestina di prima linea, che come tale venne arrestata e che fu, a suo dire, tra i primi dissociati. Lerner ricorda di averla vista nel carcere di Bergamo, nella stessa cella in cui era Terry Broom, la fotomodella americana che aveva ucciso il suo sfruttatore italiano. Quando in generale parliamo di memoria, presumibilmente ci riferiamo ad una serie di attività diverse fra loro. Un conto per esempio è, non so, ricordarsi il numero di telefono di un amico, o il passero solitario di Giovanni Pascoli, e tutt'altro conto è ricordarsi la trama di un film. In un caso è richiesto l'intervento di una memoria che potremmo definire letterale, mentre nell'altro caso è palese che ci accontenteremo di un riassunto e che al di là di un riassunto non potremmo andare. In questo secondo caso la memoria è selettiva, in base a qualche criterio di cui neppure siamo sempre completamente consapevoli, scegliamo gli elementi che riteniamo rilevanti ai fini di quel riassunto e ne sacrifichiamo altri che riteniamo meno rilevanti. Questo processo, tuttavia, è sempre aperto. Voglio dire che il riassunto di oggi è diverso da quello di ieri e da quello di domani, che è diverso a seconda delle circostanze, incluse tra queste anche la nostra considerazione nei confronti dell'interlocutore. Alla selezione contribuiscono gli interessi del momento, le esperienze vissute, la gradevolezza o la sgradevolezza che l'argomento ci ha procurato e che continua a procurarci, le opinioni che siamo andati formandoci, e alla fin fine contribuiscono i valori in cui crediamo e che riteniamo opportuno distribuire a eventi e persone. Per esempio, dal diario di qualche personaggio ottocentesco saltasse fuori il ricordo di un incontro, di una riunione con Garibaldi, Marx, Engels e Bakunin, e costui non ricordasse altro di Marx che la sua difficoltà a rimanere seduto causa la noiosa forma di foruncolosi di cui soffriva alle natiche, è presumibile che costui non avesse maturato gran stima nei confronti dell'autore del Capitale. Mas o amor sabe um segredo. Chi ricorda Marx di solito ne ricorda l'intelligenza analitica e la straordinaria dedizione alla causa degli sfruttati. Anche chi ricorda Bakunin, sottigliezze a parte, ne ricorda l'impegno in favore degli sfruttati. Tuttavia, chi legge gli appunti di Marx intorno a Stato e anarchia di Bakunin si imbatte più volte in un termine inequivocabile rivolto all'autore. Donkey, punto esclamativo, in inglese asino. Ma in Stato e anarchia Bakunin nei confronti di Marx fa forse di peggio. Dice testualmente che il signor Marx è di origine ebraica, nervoso secondo alcuni sino alla depressione, eccessivamente ambizioso e vanitoso, litigioso, intollerante e assoluto come Geova e come lui vendicativo sino alla follia. Uno, uno è forse più scorretto dell'altro, è perché asino bolla tesi politiche, mentre ebreo non sembra averci granché a che fare con tesi politiche. Ma per una volta non mi dilungherò sulla natura di un dissidio che è stato più volte ed approfonditamente sviscerato da valenti analisti. Quel che mi interessa far notare ora è il modo con cui i rispettivi quadri valoriali, quello di Marx e quello di Bakunin, influiscano sulle reciproche categorizzazioni. Se stavano entrambi dalla parte degli sfruttati, è poi anche chiaro che questa parte sia almeno doppia, essendo possibile stare dalla parte degli sfruttati senza essere necessariamente dalla stessa parte, con le conseguenze che il movimento operaio ben conosce a proprie spese. La seconda volta che Lerner si ricorda dell'Oliva è per dire che a certe riunioni partecipava anche un insegnante milanese dalle orecchie a sventola, che all'epoca cominciava a ragionare sulla crisi della politica. Punto. E basta. Non so, ecco, io non so cosa sia o cosa fosse la crisi della politica, ma so che all'epoca Oliva era già stato dirigente di un'altra formazione politica e che, oltre a numerosi saggi, aveva pubblicato un libro importante, per esempio Il movimento studentesco e le sue lotte. So anche che, ecco, se insieme agli altri di cui Gad Lerner serba memoria, Oliva ha partecipato a riunioni ed assemblee, in quelle sedi ha portato il suo contributo di analisi di passione politica, come aveva fatto prima di militare in lotta continua e come ha continuato a fare dopo. Come gli altri, peraltro, perché in quelle sedi ci si riuniva per fare analisi politiche e per imbastire pratiche che di quelle analisi fossero la conseguenza, e non ci si riuniva né, che so, per dar vita a tornei di bridge né per intonare collettivamente funiculi funicolà. Che Francesco D'Alessio stesse dalla parte degli sfruttatori, Marx bakunianamente parlando, è indubbio. Che sfruttasse ampiamente alcune risorse della giovane Terry Broom è altrettanto indubbio. Per chiamarlo sfruttatore, nel senso in cui si designa comunemente il particolare rapporto di dominio di un maschio nei confronti di una femmina, occorre invece trasgredire gli impegni semantici con una certa disinvoltura. E anche che Terry Broom facesse la fotomodella fa sorgere qualche problema, perché fotomodella era la sorella. D'Alessio avrà passato una sera sì e l'altra pure al Nepenta. Avrà condotto vita smodata tra gioco, femmine e droghe. Non sarà stato un modello di virtù come San Domenico Savio, ma che si sappia non lucrava dalla vendita del corpo di Terry Broom, che d'altronde in vendita, che si sappia, non è mai stato. Non aveva bisogno di prostituirsi né di far prostituire, era ricco, ricco, ricco di suo. Ed è da lì che ne venne minata l'etica, costituendo pian piano la sua ricchezza l'incubatrice di quelle pallottole che il 26 giugno del 1984 l'avrebbero abbattuto. Non è questione di scherzi della memoria, è questione di consapevolezza politica in ordine al significato dei propri ricordi e alle soluzioni narrative che adottiamo per farci belli e per autovalorizzarci. È vero che la memoria è un processo sempre aperto, di continua ed infaticabile classificazione e riclassificazione. Ma allorché i suoi risultati parziali finiscono nei libri, scritti, riscritti, stampati, ristampati, buona parte della fluidità di questo processo viene meno, e c'è il rischio che, come una pietra tombale, quei risultati diventino definitivi. La responsabilità del ricordo è pesante. Se a Marx non dispiacerebbe affatto assumersi a futura memoria tutto il peso di quell'asino affibbiato a Bakunin, questi oggi farebbe volentieri a meno di aver dato dell'ebreo a Marx. Quando poi, come è il caso di Lerner, il processo di selezione, assecondando il disimpegno odierno e dunque subendo una nuova servitù, finisce con l'annichilire l'intero senso di ciò di cui si sta parlando di un movimento politico, con le sue ragioni, i suoi obiettivi, i suoi martiri, i suoi carnefici, beh, il ricordo che ne risulta diventa un inquietante paradosso, una forma allergica di astenia politica che, consentendo pur qualche frivolezza educata nei salotti buoni di oggi, non permette più sguardi acuti nelle bolge di ieri. E va da sé allora che di queste figure sfocate a volte non si possa percepire altro che un paio di orecchie a sventola. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber.